Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Guido Grassi Damiani, i gioielli di famiglia, di Alessandra Scaglioni. Il marchio è noto, Damiani. Il settore, la gioielleria. La data di nascita dell'azienda, il 1924 a Valenza, nel distretto della gioielleria più importante in Italia, dove Enrico Damiani disegna e realizza gioielli per le nobili famiglie dell'epoca e si fa un nome. Quasi 90 anni dopo, alla guida dell'azienda ci sono i nipoti, Silvia, Giorgio e Guido Grassi Damiani. L'azienda è stata fondata da mio nonno, quindi noi siamo un business di terza generazione, continuata da mio padre attualmente col sottoscritto, coadiuvato da un fratello Giorgio e mia sorella Silvia. Quindi diciamo che siamo, tra virgolette, un'impresa a proprietà familiare, anche se non la definirei una vera e propria azienda familiare, in quanto i manager sono inseriti da tempo e anche a livelli elevati. Abbiamo diverse società del gruppo dove ci sono amministratori delegati o direttori generali che sono dei manager, e poi da qualche anno siamo quotati in borsa, quindi ripeto, definirei un'azienda a proprietà familiare più che puramente familiare. Tra gli anni 60 e 90, Damiano, figlio di Enrico, inizia un processo di potenziamento industriale e di espansione commerciale e imposta la chiave dello sviluppo che oggi i suoi figli portano avanti. Probabilmente il passaggio, i momenti onestamente un po' più facili forse di quelli attuali, da azienda puramente produttrice a marca. Quindi mio padre aveva già iniziato a fare pubblicità quando in gioielleria non si faceva pubblicità, e quindi è stato proprio pioniere. Noi con la nostra generazione abbiamo ulteriormente schiacciato sull'acceleratore, quindi con non solo pubblicità ma testimonial, negozi monomarca che abbiamo aperto in tutte le vie principali delle città più importanti al mondo. Sicuramente questo, fatto una quindicina d'anni fa, ha dato una grossa accelerazione alla vendita di gioielli, che però erano e restano il punto portante della nostra azienda, e quindi con sempre una ricerca della massima qualità, e per qualità intendiamo sia delle materie prime ma non solo, della realizzazione e ancora prima del design. Nel corso degli anni altri marchi si aggiungono a Damiani. Nel 1986 nasce Salvini, alla fine degli anni 90 il brand Alfieri & St. John. Nel 2000 viene creato il marchio giovane del gruppo, Bliss. Nel 2006 il gruppo acquisisce il marchio Calderoni. Nel 2008 Rocca. La produzione è concentrata in Italia. Tutta la produzione è fatta in Italia, salvo che per il brand più giovane, abbiamo un brand molto, tra virgolette, fashion, con un prezzo d'accesso molto easy, partiamo da circa 50 euro, dove parte della produzione viene fatta con terzisti cinesi. Ma anche in quella brand facciamo per esempio il nostro cavallo di battaglia, un anello da 98 euro che è totalmente made in Italy, quindi continuiamo a fare anche quello a Valenza. Mentre tutti i brand come Damiani fanno il 100% a Valenza, e direi il 99,9% a Valenza e qualche cosa appena fuori Valenza, insomma, comunque il 100% made in Italy. La qualità del made in Italy, secondo Guido Grassi Damiani, resta un valore molto forte in questo come in altri settori. La migliore qualità, per fortuna, riusciamo ad averla ancora in Italia. Abbiamo tutta una serie di svantaggi che non sono per niente piccoli, dal costo del lavoro alla burocrazia del lavoro, che è un impedimento molto forte, però il livello di qualità che si ottiene in Italia non si riesce a ottenere all'estero, oppure in certi casi, anche dove si riesca ad avvicinarsi, poi alla fine i risparmi non sarebbero così importanti. Ma non è solo il discorso tra Oriente e Europa, è proprio l'Italia in sé per sé. Infatti io, tutte le volte che mi capita di prendere un capo, che so io, di Louis Vuitton o di Hermès, quando sono di alta gamma sono made in Italy, quindi c'è scritto Hermès Paris e poi sotto made in Italy, che è una grossa soddisfazione per chi fa il nostro mestiere, ma non solo, anche nella gioielleria. Tiffany o gli stessi Cartier producono l'alto di gamma, viene prodotto in Italia e proprio a Valenza, dove noi abbiamo i nostri laboratori. Sedi produttive e laboratori a Valenza, sede commerciale a Milano, una rete di oltre 2.500 rivenditori tra gioielleria, department stores, franchises e distributori, oltre a 80 negozi monomarca e presenza con sedi operative all'estero. Oltre ai negozi che sono in tutto il mondo, abbiamo una sede operativa a Lugano, che è la Damiani International, che è quella che governa e agisce anche da subholding per le altre filiali estere, e infatti abbiamo altre filiali dove abbiamo la Damiani US in New York, abbiamo la Damiani Japan che è a Tokyo, e poi abbiamo recentemente aperto sia la filiale Hong Kong che una piccola filiale a Macao, ma quella di Macao è più che altro per gestire due negozi, mentre quella di Hong Kong è, a parte la gestione di negozi diretti, ma sarà anche un po' il trampolino per lo sviluppo che andremo a fare in tutta l'area, nella Greater China principalmente. La conquista dei mercati internazionali è iniziata da poco. L'internazionalità vera e propria, diciamo che l'ha iniziata la terza generazione, cioè noi, e le filiali di cui parlavo prima sono state aperte tutte negli anni 2000, dopo il 2000, quindi non arrivano a 10 anni. E quindi siamo abbastanza recenti. Diciamo che per essere piccoli e nuovi i risultati sono buoni, e probabilmente per quello che dicevamo prima, non solo per quello, però quindi per quello che dicevamo prima intendo la manualità, l'artigianalità, il design eccetera eccetera, ma anche per un altro punto molto importante, ovvero sia l'heritage, la storia, cioè tutti questi nuovi paesi ammirano e ambiscono anche non solo un prodotto, ma quello che c'è dietro il prodotto stesso, che sia esclusività, che sia una storia, che sia un qualche cosa che non può essere solo un bel prodotto a un buon prezzo. E anche in questo caso, parlando di mercati internazionali, parliamo di Cina. Noi abbiamo dei discreti successi, siamo molto ottimisti, continuiamo a aprire, ci siamo mossi sulla Cina di recente e in 448 comunque arriveremo entro fine dell'anno prossimo almeno 7-8 negozi nelle location di nuovo più importanti, delle città più importanti, e anche coi consumatori che, anche se non conoscono ancora magari il brand, entrano nei negozi, apprezzano il prodotto e lo comprano, e anche con prezzi molto più alti di quelli che magari si vendono in Europa o negli stessi Stati Uniti, per esempio. La maggior parte del fatturato è oggi realizzato in Italia, ma le prospettive di crescita riguardano l'estero. Noi facciamo circa ancora il 70% in Italia, però perché abbiamo diversi brand e anche una catena retail che si chiama Rocca, che fa tutto in Italia. Il brand Damiani, che attualmente è l'unico col quale facciamo internazionali, vendite internazionali, fa più del 50% all'estero, e onestamente è lì che vorremmo andare a crescere. Noi, ecco, il brand Damiani principalmente che andiamo all'estero, gli altri brand li utilizziamo ancora per il mercato italiano e ci penseremo un po' più avanti. E la crescita deve confrontarsi con un mercato fatto di aziende medie e medio-piccole, che può attirare l'interesse dei grandi gruppi. Siamo ancora una piccola azienda, perché facciamo un 150 milioni di fatturato circa, 140 mal contati, però nel nostro settore rappresentiamo già un'azienda di dimensioni tra virgolette considerevoli, perché tolti i big del mondo, ma la stessa Bulgari, che è appena passata di proprietà e che è diventata francese di recente, comunque ha un fatturato di circa un miliardo di euro, di cui però la gioielleria è poco più di metà, quindi mezzo miliardo di fatturato di gioielleria, ed è il terzo gioielliere al mondo, quindi in più è quasi tutto retail, mentre noi siamo un'azienda più sulla wholesale, quindi i nostri fatturati sono poi al pubblico, sono diversi, sono più ampi, sarebbero più ampi. Quindi questo dimostrazione che il nostro settore è ancora con aziende medio-piccole ed è molto frammentato. Ci sono pochi player, qualcuno nuovo arriverà, molti dei grossi gruppi comunque entreranno nella gioielleria in modo più forte, perché è un mercato che è, a detta di tutti, con un potenziale di crescita molto forte. Le marche sono ancora poche, è un mercato ancora poco branded confronto agli altri segmenti del lusso, e quindi qualche cosa verrà. Quello della gioielleria resta però, secondo Guido Damiani, un settore dove entrare non è facile e dove l'esperienza conta parecchio in tutte le fasi della produzione, e dove la concorrenza che arriva dall'estero trova qualche difficoltà. È la visione un po' dell'insieme che, per fortuna, oltre alla stessa lavorazione, alla lavorazione in se stessa che manca in tanti paesi, quindi il poter capire e creare un qualche cosa oltre che costruirlo, perché per fare un gioiello la fase produttiva è importante, ma prima della fase produttiva c'è un disegno che è altrettanto importante. C'è soprattutto nel nostro settore il fatto di trasformare un bidimensionale in tridimensionale, che è ancora più importante. Non solo la realizzazione del primo modello è difficile, è importantissima, e il capire quando ci può stare un grammo in meno d'oro, o ci deve essere un grammo in più, o ci deve essere qualche diamante in meno e qualche diamante in più. Nel mondo della moda è un po' più facile, uno fa il pantalone un po' più lungo, un po' più corto, non cambia tantissimo. Nel nostro settore qualche diamante in più e qualche grammo in più posizionano l'oggetto da bello a brutto, oppure da bello in mercato a bello fuori mercato. Questa è una cosa che fanno fatica a capire, non solo onestamente i cinesi, ma anche fuori da, e anche non solo fuori dall'Italia, ma anche in tanti casi fuori da Valenza o fuori da certe aziende che fanno questo da tutta la vita. Noi, per esempio, siamo tutti i giorni o comunque frequentemente approcciati da marche e da gruppi internazionali del fashion che stanno pensando di entrare nel settore della gioielleria, ma capiscono che per fare qualcosa di fatto bene e devono rivolgersi a qualcuno che lo fa da tanti anni, perché è un settore dove il know-how è limitato, non si muove tanto e quindi alla fine non è facile da trovare. La famiglia Damiani nel 2007, nel momento dell'ingresso in borsa, aveva posto il vincolo di non scendere sotto il 51% per mantenere il controllo. La loro posizione in questo senso non è cambiata. Noi in questo momento non abbiamo nessuna intenzione di vendere l'azienda, siamo giovani, o meglio, relativamente giovani, però in Italia a 40 anni si è giovani imprenditori. Vi facevo prima la battuta, io ho ereditato l'azienda che non ero trentenne, e ero un giovane imprenditore allora, adesso che ne ho 40 superati continuo a essere un giovane imprenditore, e quindi diciamo che noi pensiamo di poter fare bene ugualmente e di avere degli spazi, pur rimanendo un size medio piccolo, ma essendo, come dicevo prima, il settore nostro meno affollato degli altri, pensiamo che ci siano spazi di crescita anche grossi. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.